Dopo 50 anni di successi, la XF rompe le righe rispetto a una tradizione stilistica che fa parte dell'essenza stessa del marchio Jaguar e si presenta al pubblico degli appassionati con alcune novità all'avanguardia. Dagli interni di lusso ipertecnologici all'ottimo cambio automatico a 6 rapporti, pronto a soddisfare anche i guidatori più sportivi, fino al diesel biturbo prestante e silenzioso. E nonostante la massa di quasi 2 tonnellate, l'impianto frenante, fino a oggi tallone di Achille del Jaguaro, risponde prontamente anche alle alte velocità. Un ulteriore segnale del passo in avanti compiuto dalla casa inglese, una soluzione di continuità che coincide con il passaggio da Ford a Tata. Nome: Jaguar XF 2007 DV6. Carrozzeria: berlina, 4 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,96 metri, larghezza 1,88 metri, altezza 1,46 metri. Potenza: 207 cavalli. Trasmissione: trazione posteriore, cambio manuale sequenziale a 6 marce. Prezzo: 58.000 euro.